sto baccano? Che succede? È la stampa, bellezza. La stampa. La rassegna stampa di Radio 24. A cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente. Niente. Rischio mafia. Fermate le ruspe nel parcheggio nel centro di Milano. Subappalto sospetto. Un articolo di Mario Gerevini sul Corriere della Sera. Dagli studi Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Avete sentito, il Corriere della Sera in prima pagina, taglio basso, mette una notizia che mi pare altri quotidiani non hanno. Ve la ripeto, rischio mafia, fermate le ruspe del parcheggio nel centro di Milano. Vediamo cosa ci dice questo articolo che apre la pagina delle cronache, pagina 21. Rischio mafia, la scoperta di un subappalto sospetto nel parcheggio vicino al Duomo. I lavori gli erano stati affidati dalla Codelfa del gruppo Gavio, che aveva vinto il bando del comune. E le ruspe di Antonino Marras erano già pronte per gli scavi del parcheggio sotterraneo di Piazza Meda, centro del centro di Milano, equidistante da Scala, Palazzo Marino, San Babila, Duomo e via Monte Napoleone. 5 piani interrati, 540 posti auto, una delle opere più importanti, discusse e tormentate tra quelle bandite dal comune negli ultimi anni. E la domanda di Mario Gerevini, autore dell'articolo, è: ma che ci faceva Marras nell'inverno del 2005 con le sue ruspe in Piazza Meda? La Codelfa gli aveva subappaltato una parte dei lavori per il parcheggio sotterraneo, tuttora in costruzione, quindi fino a qui niente di male, ma dice l'autore dell'articolo, se andiamo a scavare un po' sull'imprenditore, diciamo, sul suo passato, troviamo delle sorprese. Per esempio, la Direzione Investigativa Antimafia di Milano, DIA, apre su di lui un dossier, mentre altri documenti giudiziari lo definiscono pericoloso esponente della malavita organizzata, operante nella provincia di Milano, in contatto con ambienti camorristici. Questo naturalmente stiamo parlando di Antonino Marras, questo è l'imprenditore a cui fa riferimento l'articolo del Corriere della Sera. Più indietro nel tempo, 1987, l'ANSA scrive da Parma dell'arresto di 4 malviventi di provenienza milanese che si pensa in contatto con la malavita calabrese, tra questi il futuro aggiudicatario momentaneo del subappalto di Piazza Meda. Il motivo? Incappucciati con passamontagna avevano assaltato un caseificio e picchiato il titolare per impossessarsi di 1500 formi di formaggio da trasportare su un tir, ovviamente rubato. L'elenco di questo servizio di Mario Gerevini sul Corriere della Sera a proposito di Antonino Marras e del suo passato giudiziario è lungo, però insomma questa è davvero una novità, una notizia, ripeto, mi pare in esclusiva comunque così messa del Corriere della Sera. E adesso invece il Corriere della Sera però ha anche altre cose, come dire, che hanno anche altri giornali, per esempio l'appello di Bush, Wall Street vola e il dibattito ormai, come dire, tra i liberisti, l'economia deve salvarsi da sola, scrive un Jeffrey Miron, uno dei 166 economisti che hanno firmato la lettera di congresso contro il piano Bush, mentre ci sono altri che dicono, insomma, senza il salvataggio qui è il disastro totale. E c'è anche Massimo Gaggi che firma un editoriale interessante, niente illusioni, negli USA è fallito il gigacapitalismo, non il mercato del resto è nel nostro DNA, è parte fondante della cultura dell'Occidente. Questo così è l'incipit del servizio di Massimo Gaggi. Che la finanza avesse smesso di avere i piedi ben piantati per terra lo sapevano tutti, tanto che la credibilità del sistema era stata affidata ai titani, i semidei dell'Olimpo di Wall Street, scomparsi i Master of the Universe. Ai mercati rimangono una Fed trasformata in Fort Alamo e Paulson, che l'altro giorno al congresso a chi porte chiuse gli chiedeva cosa accadrebbe in caso di bocciatura definitiva del piano di salvataggio, ha messo da parte la mitologia greca e ha invocato l'aiuto del buon Dio. Questo sul Corriere della Sera, Massimo Gaggi. Sempre il Corriere della Sera pubblica, in polemica con il vice direttore del Corriere della Sera, Gianluigi Battista, che scusate, Pierluigi Battista credo che sia il suo nome, ieri o l'altro ieri aveva fatto un editoriale, Battista, in polemica con Walter Veltroni, dicendo insomma con questa nuova svolta Walter Veltroni, con questi toni alzati, questo insomma torna al passato, questa era un po' una narrazione del passato. Allora qui è la risposta di Veltroni. Caro direttore, nel suo editoriale di ieri Pierluigi Battista giustamente descrive la preoccupazione e l'allarme che avevo manifestato nell'intervista al Corriere della Sera di domenica come una vecchia narrazione, come la ripresa di uno scontro muro contro muro in cui viene messa in forse la legittimità democratica dell'avversario. Credo che questa analisi non sia corretta per due motivi che proverò a spiegare, e in una lunga lettera a pagina 36, io non ve la posso ovviamente leggere tutta, Walter Veltroni, vediamo se la trovo, sì, Walter Veltroni interviene su questa questione. Il primo riguarda il rapporto impostato dalla maggioranza da Berlusconi per primo con l'opposizione, il secondo la natura e la portata del ragionamento sui rischi di un impoverimento della democrazia che ho avviato ormai da tempo, che era al centro del mio discorso a Lingotto e poi a Sinalunga e dell'intervista al suo giornale. Dice, ma non voglio andare così indietro per comprendere chi davvero è abituato a mettere in discussione la legittimità democratica dell'avversario. Mi limito a partire dallo scorso giugno, mentre alle Camere arrivava la norma blocca processi, i magistrati erano definiti metastasi della democrazia e il leader dell'opposizione diventava un fallito che dovrebbe ritirarsi dalla politica. Ed è di qualche giorno fa, nel pieno della trattativa all'Italia, la battuta insultante di un Veltroni inesistente, spesa per conquistare titoloni sui giornali e smentita solo giorni più tardi. In mezzo un mare di insulti di tutti gli uomini del PDL. Chi, se non Berlusconi, ha definito la giudice Gandus un nemico politico? Chi minaccia la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sul lodo Alfano? Chi parla del governo come di un consiglio d'amministrazione? Chi durante una trattativa offende il sindacato con i suoi prendere o lasciare e si esprime nei confronti di una forza dell'opposizione come definendola nemica della democrazia e della libertà? Una litania, questa sì, delegittimante per l'opposizione e per l'istituzione. Questo abbiamo Walter Veltroni sul Corriere della Sera a proposito del rapporto con Berlusconi. Questo è un capitolo ovviamente tra i più delicati per quanto riguarda la politica. Ora invece volevo andare al quotidiano La Repubblica, perché La Repubblica, come tutti i giornali oggi, come molti giornali oggi, alcuni in prima pagina, La Repubblica come apertura addirittura di prima pagina, riporto la notizia di cronaca: Parma picchiato da 6 vigili urbani, 6 un negro. Allora qui c'è Curzio Maltese che arriva a delle conclusioni. A Parma, nella civile Parma, la polizia municipale ha massacrato di botte un giovane ghanese, Emmanuel Bonsu Foster, e ha scritto sulla sua pratica, ecco qui la cosa che davvero colpisce insomma, e ha scritto sulla sua pratica la spiegazione: negro, davano la caccia agli spacciatori e hanno trovato Emmanuel, che non è uno spacciatore, è uno studente, anzi è uno studente che gli spacciatori li combatte. Stava cominciando a lavorare come volontario in un centro di recupero dei tossici, ma è bastato che avesse la penna nera per scatenare il sadismo dei vigili. Calci, pugni, sputi al negro. Ecco, nel racconto, qui la Repubblica dedica molto spazio, anche parla della città dell'assessore sceriffo, qui la gente vuole ordine, io non sono un poliziotto, ma i cittadini mi chiedono sicurezza e io devo rispondere con tutti i mezzi. Secco, i miei vigili non fanno certe cose, rispettano leggi e regolamenti. È un bastione, l'assessore Costantino Monteverdi, UDC, assessore alla sicurezza. A dimettermi non ci penso nemmeno. E ripeto, nel racconto, quello che però colpisce di tutta questa storia, di cui ancora tutti i contorni non sono chiari, è ammanettato e picchiato, insultato con frasi sfondo razzista da 6 agenti della polizia. Questo è il racconto, no? Di Parma, Emmanuel Bonsu Foster, lui si chiama Emmanuel Bonsu Foster, studente ghanese di 22 anni, denuncia alla redazione online di Repubblica, vabbè, una serata da incubo cominciata di fronte alla scuola serale e terminata quando viene rilasciato alle 23 ha in mano una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, e quindi non niente che abbia a che fare con la droga, e una busta del comune di Parma. Dentro ci sono sono i suoi effetti personali e sopra al posto del nome e cognome la scritta Emmanuel Negro. Ecco, allora questo naturalmente è un po' strano, perché come se arrestassero un bianco e mettessero nome di battesimo bianco. Ecco, questo, ripeto, è un po' una particolarità. Continuano le svolte di Gianfranco Fini. In Italia c'è il rischio razzismo. Questo è il titolo di un servizio che è tenuto in taglio basso sul quotidiano Il Giornale. Colpisce perché, diciamo, anche da altre parti c'è questa cosa, che poi vedremo da dove è ripresa, ma qui, insomma, gli viene dato un buono spazio e... sia pure in taglio basso, parla di leggi razziali, del rischio razzismo che perdura e della paura per lo straniero sempre latente che nasce dalla diffidenza. Nell'ultimo libro di Vespa, Viaggio in un'Italia diversa, Gianfranco Fini fa un altro piccolo passo, scrive Il Giornale, sulla strada che prima o poi porterà al dopo Berlusconi. Ecco, questa è una chiave interessante di lettura che viene fornita dal Giornale. E ancora una volta affronta uno dei temi più sensibili per i suoi elettorato, con toni e argomentazioni che dentro N non sono certo all'ordine del giorno, come se i suoi colonnelli sono soliti accostare il tema dell'immigrazione a quello della sicurezza. Il presidente della Camera preferisce sottolineare la necessità di tenere alta la guardia sul rischio che si risveglino sentimenti di inquietudine perché fenomeni come il razzismo tornano in alcuni momenti della storia. Fini dunque va avanti sul solco inaugurato con la svolta di qualche settimana fa, quando davanti alla platea di Azione Giovane ha puntato il dito contro il fascismo tout court. Stava dalla parte sbagliata, chiudendo la querela aperta prima dall'Alemanno e poi dalla Russa per esempio sul La Repubblica di Salò. Un segnale inequivocabile del fatto che il leader di AN non vuole tentennamenti nel processo di modernizzazione della destra italiana. Una delle, scrive ancora Il Giornale, dando una chiave politica a questa che viene definita la svolta, così ha scelto di concentrarsi sul definitivo sdoganamento della destra, che passerà inevitabilmente per il PDL, dove AN, più radicata sul territorio, chiede che contino solo gli iscritti, mentre Forza Italia vorrebbe coinvolgere nei congressi anche i sostenitori. Con l'obiettivo, ecco questo è il punto, almeno mi sembra più interessante, di arrivare a Palazzo Chigi quando Berlusconi passerà la mano, magari per il Quirinale, ma se e quando accadrà il panorama politico è destinato a una decisiva rivoluzione e solo allora si capirà se Fini avrà avuto ragione. Questo è Il Giornale sulla svolta di Fini, quella che viene definita la svolta Gianfranco Fini, soprattutto su un tema delicato, delicatissimo come il razzismo, e che i fatti di cronaca ci dicono che continua a essere posto come tema d'attualità. Il Giornale scrive anche di 8 idee per salvare il portafoglio, c'è un servizio a cui viene dedicata questa cosa, interessante, perché ci sono una serie di consigli come battere la crisi, conti correnti, titoli di Stato, azioni, risparmio gestito, pensioni, case di proprietà, mutui, crisi nel mondo. C'è una serie di consigli dati, e poi c'è invece un consiglio a Veltroni di non dare i numeri. Questo dice almeno Il Giornale. Veltroni adesso dà i numeri e riporta un Veltroni senza freni, Walter dai numeri, governo Berlusconi senza maggioranza, ormai alle corde il segretario del PDL, del PD scusate, straparla, loro hanno la forza del potere, noi quella del popolo, e sono le frasi riportate. Berlusconi dice spesso bugie sulla vicenda dell'Italia, ha raccontato tre balle, attaccando un giudice ha dimostrato di non aver senso delle istituzioni, in Italia il sentimento xenofobo si allarga, Berlusconi si mostra passivo. Ecco, questo è uno dei temi trattati da poco, d'altronde abbiamo letto quello che pensa Veltroni sul Corriere della Sera nella lettera al direttore, qui invece c'è Il Giornale che, come dire, è puntualmente critico. E vi è anche Geronimo invece, alias Paolo Cirino Pomicino, che scrive un commento: è il crack del modello americano. Se vogliamo rimanere, abbiamo fatto un accenno alla giustizia, se vogliamo rimanere sul tema giustizia dobbiamo andare alla Stampa. Intanto però voglio subito dirvi, perché è importante, che la Stampa pubblica un'intervista a Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria. Marcegaglia dice: bene lo Stato, ma presto torni il mercato. L'Europa deve essere pronta al peggio. Diamo più poteri alla Banca Centrale Europea. Questo dice, andiamo a vedere nel dettaglio alcune cose dette da Emma Marcegaglia. Bene l'intervento dello Stato, ma poi si torna al mercato. Emma Marcegaglia vola da Bologna a Parigi, dall'inaugurazione del Cersaie ad un incontro col presidente francese Sarkozy, ed il filo rosso della giornata è uno solo: la crisi delle borse mondiali e i contraccolpi sulla nostra economia. La prima mossa: serve un piano europeo e bisogna dare più poteri alla BCE. A Roma la CGIL annuncia la fine del confronto. Lei dice: noi siamo sempre disponibili a negoziare, ma dopo 13 incontri non possiamo tornare al punto di partenza. Epifani ci deve dire chiaramente cosa intende fare. Insomma, Emma Marcegaglia sostiene che non è finita la stagione di mercato. Presidente, cosa ne pensa del piano USA? Come tutti gli interventi di emergenza, ha forti limiti, però vista la situazione drammatica di cui siamo va comunque approvato. Non ci sono alternative, perché altrimenti si rischia di vedere espandere la crisi a tutto il sistema finanziario, con un impatto inevitabilmente enorme anche sull'economia reale. Oggi il vero tema è salvare le banche per salvare il risparmio e l'economia, non certo coloro che hanno prodotto questi disastri. Ed è un po' il ragionamento che fanno quelli che non volevano votare il piano. Come dire, il piano non lo possono, i disastri non li possono pagare quelli che hanno sempre pagato le tasse. Questo dicono gli americani. Adesso vedremo però come si arriverà alla nuova votazione del piano americano. E infatti c'è una crisi, ultimatum di Bush, le borse gli hanno creduto e quindi va bene, diciamo, nel senso che hanno in qualche modo reagito positivamente per il momento, staremo a vedere. Ma vi dicevo, la giustizia, la stampa. Carlo Federico Grosso firma un editoriale, un commento lungo: attenti a chi vuole addomesticare la giustizia. Dice: dopo alcune settimane di silenzio la politica ha ricominciato a parlare di giustizia. Ancora una volta è stato Berlusconi a lanciare il sasso. La riforma deve essere incisiva. Essa dovrà, anzi, tanto per stravolgere più gli assetti attuali, quanto più dovesse apparire probabile l'accoglimento dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti di Lodo Alfano. Nella tesi conosce i dettagli dei progetti che sono in campo. È comunque possibile prospettare, scrive Carlo Federico Grosso, già ora i nodi che dovranno essere affrontati, e sono nodi non da poco. Mi limiterò ad accennare a due fra i principali: riforme del CSM e obbligatorietà dell'azione penale. In materia di CSM da tempo la maggioranza sta meditando una riforma stravolgente. E dice ancora: se si diminuisce la consistenza dei togati, se aumentano i laici, se si riesce a spaccare il Consiglio, il CSM, sdoppiando le istituzioni separate per i giudici e per i pubblici ministeri, se si consegna addirittura uno dei due consigli alla direzione del governo, se si affida la disciplina dei magistrati a un'istituzione autonoma a prevalenza non togata, i giochi sono fatti. Il potere dei magistrati risulta indebolito in modo irreparabile, aumenta la capacità della politica di interferire sulle decisioni che concernono l'ordine giudiziario. Se poi si decidesse di eliminare altresì la presidenza del capo dello Stato, il prestigio dell'organo subirebbe un vulnus decisivo. Questo scrive Carlo Federico Grosso sul quotidiano La Stampa. E a proposito di giustizia, vediamo anche che il quotidiano Il Manifesto intervista Pepino, che è Livio Pepino, capofila di Magistratura Democratica, che non solo critica le intenzioni, i progetti in corso della maggioranza sulla magistratura e sul CSM, ma dice... tra lui è un esponente del CSM, sulla giustizia il Partito Democratico è vittima del berlusconismo. In questa intervista Sara Menafra dice questo, insomma dice: io rilevo solo che una voce forte, capace di mobilitare su un tema importante come quello della giustizia, al momento non c'è. Non credo che sia così, dice, ma forse il problema è il rapporto con l'ANM, più di un esponente del PD l'ha criticata spiegando che l'associazione è contraria ad ogni riforma. Non credo che sia così, ma se fosse inviterei il PD ad incalzare l'ANM sui contenuti. Abbiamo un dibattito franco e duro sul merito, parlando dell'interesse generale e non delle necessità particolari, dice Livio Pipino, esponente del CSM sul quotidiano Il Manifesto. Ed ora non ora, diciamo, non ora, perché il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore, le borse provano il rimbalzo, ecco quello che dicevamo prima, il piano non è ancora stato approvato, ma l'appello, l'ultimatum di Bush sembra abbia sortito momentaneamente degli esiti positivi. Borse in ripresa ieri dopo lo shock seguito alla bocciatura del piano Paulson al congresso USA. Wall Street, lo Standard & Poor's 500 ha recuperato il 5,27%, mentre il Nasdaq è salito del 4,97% dopo che il presidente George Bush si è nuovamente appellato per il varo immediato del salvataggio bancario. E un clima di cauto ottimismo già in mattinata ha spinto a recupero i listini europei, tutti in rialzo in chiusura, salvo Milano. Il motivo per cui Milano, dicono tutti i quotidiani, non è decollato è perché ha subito, diciamo, ha risentito del vero e proprio crollo del titolo Unicredit. Il titolo, scrive ancora il Sole 24 Ore in un richiamo in prima pagina, cade ancora meno 12%. Profumo però assicura la liquidità c'è, è ok. Alessandro Graziani si occupa di questa delicata questione, perché in un panorama dove tutti dicono che il sistema comunque bancario italiano è immune, è fuori dal ciclone, e quindi i risparmiatori italiani possono, diciamo, stare relativamente tranquilli rispetto per esempio ad altri paesi europei e agli Stati Uniti, però c'è questa cosa questa notizia del titolo Unicredit che per la seconda giornata è crollato. E poi c'è invece il titolo interno è di Alessandro Graziano: Unicredit passa al contrattacco. Profumo, siamo solidi. Il titolo perde il 12%, ma sale del 4,75% nell'after hours, e quindi insomma qualche segnale positivo c'è pure. Marco Nado invece scrive: la zattera di Paulson, i salvagenti europei, mentre tutto sembra collare, i mercati si aggrappano come naufraghi all'ultima zattera del piano Paulson. La situazione è ormai insostenibile. Nell'arco di poco più di una giornata abbiamo avuto 3 nazionalizzazioni in Europa, scrive Marco Nado, Fortis, BNB e persino una sconosciuta banca irlandese. Inoltre lo Stato del piccolo paese nordico ha concesso una garanzia illimitata a depositanti e creditori delle 6 banche locali. Prestiti e derivati, così Banca Italia stringe i controlli. Giulia Leoni firma un articolo sul quotidiano Il Messaggero a pagina 4 in cui si parla di, appunto, Banca Italia passa alla linea dura. Vista la bufera sui mercati, con una circolare chiede a tutte le banche italiane di fornirle 2 volte al mese una mappatura accuratissima della propria esposizione verso i 28 gruppi bancari e finanziari stranieri. Di più, vuole sapere anche quando sono esposti tutti i loro clienti, chiedendo informazioni precise sull'ammontare degli strumenti finanziari emessi da quegli istituti esteri e detenuti dalla clientela delle banche italiane, nelle varie forme di risparmio gestito, amministrato e custodito. Il giro di vite di Banca Italia, scrive Giulia Leoni sul quotidiano Il Messaggero, mi pare uno scoop del Messaggero, però forse non l'ho visto su altri giornali, comunque qui è messo bene in evidenza, con richiamo in prima pagina. Il giro di vita di Banca Italia, dopo il terremoto che ha mandato al tappeto colossi del sistema finanziario mondiale, è contenuto in una circolare inviata pochi giorni fa a tutte le banche italiane. Una missiva, 2 pagine corredate di allegati con un elenco dei gruppi bancari esteri e lo schema segnaletico che Il Messaggero ha avuto modo di visionare. Oggetto esposizioni rilevanti, circolare che segue quella dello scorso 18 settembre con cui Binazionale chiedeva alle banche informazioni sulla propria esposizione. Ecco questo il quotidiano Il Messaggero. Ma a proposito della crisi internazionale, io volevo tornare un attimo perché ha una valutazione più politica in attesa delle elezioni americane, e vediamo cosa scrive Vittorio Zucconi sul quotidiano La Repubblica. Dice Zucconi: per chi sta suonando la campana di Wall Street? Per l'agitato e scomposto McCain che sta scivolando nei sondaggi? E la risposta credo sia la palissiana, insomma, diciamo, dice: per l'impassibile e fin troppo distaccato Obama che fa melina per difendere il vantaggio? Si è scatenato nella Washington devastata e umiliata dalla prova di responsabilità offerta dal Parlamento ammutinato contro Bush? contro Bush il blame game, il gioco del torto, quel triste e universale spettacolo che la politica sempre offre quando cerca di lasciare il cerino acceso dai propri errori nelle mani dell'avversario. Ma la sbornia ideologica e provinciale sembra passata. Nel mal di testa del giorno dopo, la prospettiva di una legge approvata domani è concreta, e infatti Wall Street ha preso un brodo e tutti si preparano al Sarah Show, preziosa distrazione. Mancano 24 ore al dibattito televisivo più golosamente atteso dal pubblico, l'incontro fra preoccupante governatrice dell'Alaska Sarah Palin e Garrulo Gaffer, che Obama ha scelto come compagno di corsa, il senatore Joe Biden. E insomma, però la sintesi di questo ragionamento di Vittorio Zucconi è che l'effetto crisi spinge in su Obama. Barack Obama, cresce il vantaggio su McCain, ma tutti aspettano la Palin in TV. E questo sì, perché questa donna sembra sia decisiva. Voglio ricordarvi che c'è una cosa minore invece che riguarda la nostra televisione. Lite Granbassi, arma dei carabinieri, niente hanno zero, ma lei dice io andrò lo stesso. Veto dei carabinieri, no alla TV con Santoro. Questo è sempre sul quotidiano La Repubblica. Bisogna tornare alle questioni della politica, e lo fa il Libero con Vittorio Feltri. I rossi sono disperati, il leader della CGIL rompe le trattative e dichiara guerra a Confindustria. Avete sentito già le parole del presidente, molto pacate peraltro, del presidente della Confindustria Emma Marcegaglia sul quotidiano La Stampa. Qui dice il segretario del PD invece gli va dietro al grido, Silvio Ballista, una rivoluzione d'ottobre in sedicesimo addirittura viene definita. Le reazioni della politica, almeno di una parte di essa, alla crisi mondiale sono sconcertanti, mentre il congresso, scrive Vittorio Feltri, degli Stati Uniti boccia il piano salvezza di Bush, la borsa americana subisce un contraccolpo negativo più violento rispetto ai tempi dell'attentato alle Torri Gemelle, gli sfascia carrozze della CGIL trascinati dal capopopolo Guglielmo Epifani, incuranti di tutto, erigono barricate e dichiarano guerra a Confindustria. Motivo? Il rinnovo e la ristrutturazione dei contratti nazionali di varie categorie di lavoratori. Chiunque comprende, non è il momento di creare problemi all'economia, ma di risolverli. Eppure il sindacato rosso, che più rosso non si può, dopo aver organizzato una resistenza inutile, anzi dannosa alla rinascita di Alitalia, non pago. Eccolo di nuovo in azione per complicarsi la vita e complicare quella delle imprese cui è legata l'unica speranza di rimettere in piedi il paese. Questo dice Vittorio Feltri nel suo editoriale quotidiano su Libero. E poi, e i verdi sono coglioni, dice Prodi, questo Gianluigi Paragone, a volte basta solo aspettare un po' di tempo, pazientare, poi ecco che le verità arrivano, una appresso a quell'altra. E che c'è qui tutta una ricostruzione di Gianluigi Paragone, di una battuta che avrebbe fatto Romano Prodi. Ecco, c'è anche un'inchiesta sul viaggio nelle case chiuse del peccato. Io volevo invece però tornare un attimo al tema, cioè mi spinge a tornare al tema del razzismo. Il quotidiano Il Riformista, tra le altre cose, titola su come mi pare il secolo XIX, che titola addirittura l'apertura di prima pagina su Profumo. Profumo di crisi, questa è la battuta del Riformista col quale apre, mentre il secolo XIX titola Appello di Bush, crolla Unicredit. Ma insomma, c'è anche un profondo rosso, insomma, un gioco di parole del Riformista. Ma io vi volevo portare al centro della prima pagina, perché Massimiliano Gallo scrive: aveva ragione il Papa, siamo razzisti. Siamo uno strano paese, non c'è che dire. A parole siamo tutti cattolici, il verbo della Chiesa in tema di laicità e ricerca rappresenta quasi sempre le colonne d'Ercole della nostra politica. Se i parroci ci dicono di non votare un referendum, obbediamo quasi come un solo uomo. Eppure, quando col tempismo da sociologo il Papa decide di dedicare all'Angelus, alla sempre più preoccupante deriva razzista, facciamo spallucce, ce lo facciamo scivolare addosso, quasi come se non fosse successo nulla. A Napoli, come a Parma, dove un ragazzo di colore denuncia di essere stato picchiato dai vigili urbani, Ratzinger ha sollevato la questione il 17 agosto, mentre la gran parte di noi era al mare e chi era in città si godeva le Olimpiadi. Si tratta di manifestazioni preoccupanti, disse Benedetto XVI, legate spesso a problemi sociali ed economici che tuttavia mai possono giustificare il disprezzo e la discriminazione razziale. Serve una reciproca accoglienza di tutti. Sono parole di Ratzinger che dice Massimiliano Gallo, però vengono trascurate. Questo sul Riformista, che poi si occupa anche del Peppino Calderoli, il coraggio di Spike Lee vendica Pansa. Ecco questo a proposito del film, dell'ultimo film di Spike Lee, molto polemico sui partigiani. E l'Unità a questo proposito dice, titola senza orpelli, razzisti in divisa. Emmanuel, 22 anni, ghanese, pestato e insultato dai vigili di Parma, aggredito senza motivo. Sul verbale di rilascio hanno scritto negro. Questa è effettivamente la notizia che lascia molti perplessi. Qui poi c'è una frase di Tom Wolfe, autore del Falò della Vanità, viene riportata in prima pagina ed è molto interessante, riguarda appunto quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Ma mi dicono che il mio tempo è scaduto, quindi io ancora una volta, come tutti i giorni, vi invito comunque a telefonare per il microfono aperto anche prima delle 8.30 al numero verde 800 24 00 24 per intervenire in diretta. A dopo.